Purtroppo la nostra intervista della settimana ha subito una piccola modifica, infatti Mauro, con somma tristezza, ne stiamo già parlando da qualche giorno sia a Radio Città Fucico che in generale su tutti i mezzi di comunicazione, c'è stata una stretta con l'ultimo DPCM e i concerti purtroppo adesso sono stati annullati, quindi l'intervista che abbiamo oggi, che vi proponiamo oggi, era stata fatta il giorno prima dell'uscita dell'ultimo DPCM, quindi si parlava ancora di fare concerti. L'intervista è stata fatta a Lucio Leoni, ne avevamo già parlato alcuni mesi fa quando è uscito la prima parte del suo album, e adesso con l'uscita della seconda parte dell'album ci sarebbe stato anche il concerto al Mercato Sonato. Ecco, in questo caso appunto durante l'intervista sentirete anche parlare del DPCM e della possibilità di fare o meno musica dal vivo, però ecco, ve lo anticipiamo, questo concerto purtroppo è saltato, ma noi siamo molto contenti di avere fatto questa chiacchierata con Lucio Leoni, perché secondo me è un artista davvero molto bravo e la seconda parte del suo disco è davvero molto interessante, quindi proprio per quello adesso vi facciamo ascoltare un pezzo e poi vi lasciamo la chiacchierata che Mauro ha fatto con Eravamo lui. Eravamo come il fresco negli androni dei palazzi quando arriva l'estate, quando ci siamo innamorati come pazzi, e adesso tutto intorno esplodono granate, senti lo scarto termico come una guerra al lampo, e quel bacio lisergico adesso sembra solo un bacio a stampo, come un gelato nei ricordi da ragazzo, le memorie vaghe degli amici dell'estate. Chissà se ci perdiamo noi, se ci ritroveremo mai. E poi c'è il mare che obbedisce a leggi che non puoi tradire. Il mare, il mare, il mare, che è pieno di correnti e se le sai seguire ti portano dove vuoi, ti portano a casa, ma dov'è, dove vuoi, dov'è casa? Quanto è cattolica la semplicità, e il nostro amore vale più di un paradiso. Aspetteremo insieme tutta la felicità, ma non può costarci troppo sacrificio. La vuoi fare una festa con me? Chiamiamo gli amici e ti metti il vestito più bianco che hai, tipo una gonna nera che trascini per terra e si sporca dei viaggi che fai. Madonna che festa, Madonna gli amici, Madonna che gonna. E questa festa che cos'è? È un matrimonio? Ci stiamo lasciando? Tu che dici? Tu che dici? E poi c'è il mare che obbedisce a leggi che non puoi tradire. Il mare, il mare, il mare, che è pieno di correnti e se le sai seguire ti portano dove vuoi, ti portano a casa, ma dov'è, dove vuoi, e dov'è casa? Siamo al telefono con Lucio Leoni, che il 30 ottobre sarà al Mercato Sonato di Bologna. Ciao Lucio e grazie della disponibilità. Ciao, grazie a voi. Allora, cominciamo. Il 15 ottobre è uscita la parte 2 di un album che ha visto la prima uscita a primavera, quindi Dove sei parte 1 e Dove sei parte 2, senza punti esclamativi o interrogativi. Quali sono un po' le tematiche e anche il senso che sta dietro a questo titolo di questo doppio album? Ma dunque, diciamo, il grande filo rosso così che sottende questo lavoro qui è un po' confrontarsi con quello che è un rito di passaggio, no? Grande classico, quello del passaggio all'età adulta, cosiddetto, un po' un modo per cercare di definire così dei confini rispetto a quello che quando eravamo più giovani credevamo di dover diventare o volevamo diventare, e poi ecco, fare un po' i conti con quello che effettivamente siamo diventati, nel bene e nel male, perché poi insomma si diventa adulti ognuno coi tempi suoi, c'è chi diventa adulto molto giovane, c'è chi non lo diventa mai, per cui insomma è un discorso abbastanza ampio. Questo è il grande filo rosso che c'è intorno a tutte le canzoni. Ogni canzone in qualche modo è un tentativo di andare a vedere uno specchietto di queste di questo grande abito di paillette, diciamo. Ok, quindi domanda un po' magari filosofica: quali sono i segnali che fanno capire di essere arrivati all'età adulta, secondo te, se ci sono? Ma guarda, io in realtà questa roba qui è più mi è balenata addosso più per una questione, credo, quasi culturale, no? Cioè, nel senso che ci si scontra un po' con una questione anagrafica a un certo punto, per cui che tu ti senta adulto o che non lo sia, in qualche modo da qualche parte ti senti dire che dovresti ormai esserlo. Io ho quasi 40 anni, manca molto poco per arrivare ai 40 anni, e da un po' di tempo a questa parte ho cominciato ad avvertire questa sorta di pressione della società nei miei confronti. In realtà poi effettivamente i segnali, quelli tangibili, al di là della comprensibile caducità del corpo che comincia a dare segnali di cedimento, sono una serie di responsabilità e di scelte che sei costretto a fare, un po' perché cominciano a mancare i perni centrali che t'hanno tenuto in qualche modo ragazzo o comunque figlio, e aumentano un po' di pressioni legate al fatto che ci sono una serie di cose che a un certo punto, nel bene o nel male, devi cominciare a smazzarti da solo, così si dice a Roma. Mi ricordo c'era una frase, non mi ricordo più dove, quando sei disperato e hai bisogno di un adulto e ti rendi conto che l'adulto di cui hai bisogno diventi tu, ecco, insomma, un po' così. No, dicevo che poi insomma per molti per esempio questo passaggio avviene, no, con la nascita del figlio. Io per esempio da quel punto di vista lì sono ancora indietro, per cui è un passaggio che è arrivato indipendentemente poi dall'essere diventato padre. Nell'album c'è un brano piuttosto particolare, possiamo definirlo, tra l'altro con un featuring interessante, che sono i Mocadelic. Il brano si chiama Nastro Magnetico, e nella spiegazione che abbiamo avuto di questo racconto c'è la sonorizzazione di una sceneggiatura detta ma non girata da una fotocamera. E cosa significa? Qual è cosa racconta poi Nastro Magnetico? Ecco. È chiaramente una sorta di supercazzola in qualche modo, no? L'avrai intuito. Esattamente, ma qual è il poi? Diciamo che io mi sto avvicinando sempre di più e appassionando, soprattutto più che avvicinando, al mondo del cosiddetto spoken word, che qui in Italia ancora non ha tantissimo seguito, però ci sono degli esempi molto forti, per esempio penso agli Offlaga Disco Pax, ai Massimo Volume, a Walkie Talkie, insomma ci sono delle esperienze molto interessanti in quel senso. E mi è capitato, ma per puro caso, di scrivere questa canzone utilizzando la tecnica, la forma della sceneggiatura, non era pensata, mi sono ritrovato in mano questa che era effettivamente una sceneggiatura, ma che era nata pensando al lavoro sul disco, per cui nel momento in cui mi sono ritrovato questo testo, anche molto lungo, molto, molto intenso, diciamo, ho pensato che sarebbe stato interessante ragionare sulla sonorizzazione, ecco, utilizzare chi è molto forte nella musica da film per sonorizzare in qualche modo comunque il lavoro di un artista che a grandissime linee possiamo, che poi so io, possiamo inserire nell'ambito pop. Il senso della canzone in sé in qualche modo è lasciato libero, no? Nel senso c'è una sorta di storia d'amore, cioè, che non è molto comprensibile perché si riflette all'interno di una musica setta che verosimilmente chi sta ascoltando o leggendo la sceneggiatura ha già in mano, ha già visto, perché è, la linea del tempo è molto confusa e tutto un po' si confonde e diventa difficile da comprendere. Un po' per quanto mi riguarda, infatti il brano chiude il disco e chiude questo percorso di due dischi, è un po' la grande sintesi di questo grande domandarsi, arrovellarsi rispetto al rito di passaggio sull'età adulta, per cui in realtà alla fine è un po' un cercare di mettere il punto sul fatto che forse effettivamente è un falso problema questo dell'età adulta, del passaggio all'età adulta, del sentirsi adulti, del sentirsi realizzati, formati, finiti, ecco. Quindi abbiamo già uno spoiler poi del senso di tutto quanto alla fine, ci stai dando. Vorti tutto e vorti niente. Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere, in leggera contrazione. Lui, disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal bar, battere infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso, nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio col fardello che ad ogni passo rischia il drop, e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica muore senza fare rumore, un'automobile tenda e il sole pallido delle 9 del mattino piega all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, muovo i signori del tempo, signori grigi prendono a giro, vagare prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei, e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare. Capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore. Identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro. L'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino. Dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte. Facciamo un salto indietro nel tempo adesso per chiederti un'altra cosa legata tra l'altro alle musicassette, perché nel 2011 c'è stato un po' il tuo esordio musicale come cantautore, però con un nome d'arte diverso, che era Bucio, se non erro, che questo esordio è uscito solamente in musicassetta, ma nel 2011, non è una scelta un po' controproducente rispetto alla possibilità di vendere poi? Sicuramente lo è stata, diciamo che sono in qualche modo, rispetto a cose che ho letto anche recentemente, una scelta anche profetica, perché mi sembra di aver capito che le musicassette sono tornate anche abbastanza prepotentemente sul mercato discografico. Io ricordo che quando ho dovuto stampare quel disco lì era rimasta in Italia solo una ditta che ancora aveva cassette vergini, chiamiamole così, ed era a Torino, e mi disse che per stampare le 500 copie di quel disco lì avrebbero definitivamente esaurito le proprie scorte e che la Sony non le produceva neanche più. Invece mi sembra di capire che adesso stiano tornando. Sì, diciamo che insomma, esattamente come il nome d'arte dell'epoca, che era distante dal mio nome vero, era una sorta di maschera, evidentemente non ero così pronto, non avevo così fiducia nei miei mezzi, no? Però ha funzionato in qualche modo, nel senso, un po' di copie sono state vendute. Ma guarda, in realtà è l'unico disco sold out che è esaurite completamente quelle copie lì, sono diventate quasi un feticcio ormai. Sì, ha funzionato perché mi ha dato l'opportunità di capire che effettivamente c'era qualcuno che era interessato a quel percorso lì. Era un percorso anche molto più leggero di quello che sto affrontando adesso, un po' più sbarazzino. Chissà, insomma, in qualche modo mi ha dato una spinta sicuramente. Ok, beh, allora vedremo se da qualche parte si riuscirà anche a trovare questa musicassetta rara, chissà. Tornando a parlare invece di Dove sei, parte 1 e parte 2, tu sei, oltre che artista poliedrico, anche produttore, ma le influenze che, magari qualche influenza artistica che hai portato all'interno di questo album, ecco. Ma guarda, come ti dicevo prima, io in questi ultimi tempi mi sto veramente appassionando tanto al mondo dello spoken word, ed è un mondo che mi cattura tanto. Io credo, ecco, diciamo che sono un ascoltatore tutto sommato compulsivo, per cui ascolto e onnivoro, ascolto di tutto e sono molto curioso in questo senso. Per questo disco qua c'è stato tanto lavoro con i musicisti, perché mi interessava dargli dei punti di riferimento. Proprio rispetto a questo panorama qua, e anche cose insomma magari un po' più minimal dal punto di vista dell'estetica sonora, penso ai Sonlux per esempio. In assoluto diciamo che credo di essere in un momento di transizione, siamo ancora in una forma canzone che è molto legata alla tradizione italiana, per quanto mi riguarda ovviamente. Ci hai dato un sacco di dritte anche per guida all'ascolto, possiamo definirla, ecco, dai. Adesso cambiamo un po' domanda, perché dicevamo che il 30 sei qui a Bologna in concerto e hai altre date in programma in giro per lo stivale. Visto il periodo terribile, possiamo definirlo, che stiamo passando tutti quanti, e soprattutto il settore della musica dal vivo, che è molto in crisi. Com'è? Quali sono un po' le aspettative, le emozioni, le sensazioni a tornare su un palco, a stare su un palco in questo periodo? Guarda, sono contrastanti, ti dico la verità, nel senso che da un lato c'è sicuramente la voglia di anche di testarsi, no? Perché noi poi effettivamente l'opportunità di capire dal vivo questa roba qua come funziona, ne abbiamo avuto, abbiamo avuto l'opportunità di fare un paio di date quest'estate qui a Roma, ma non chiaramente molto poco, perché poi i concerti sono cose che si costruiscono anche in un arco di tempo, si elabora, i musicisti, l'affiatamento cresce, il respiro cambia, e, per cui da un lato c'è grande curiosità, grande voglia, dall'altra c'è anche la netta sensazione che questo momento qui, che secondo me dobbiamo smettere di chiamare momento per quanto riguarda il nostro settore, perché credo che per il nostro settore andrà avanti a lungo in questo senso, pretenda da qualche parte una reinvenzione, una riformulazione dell'idea di performance dal vivo. Io non credo che nell'arco di 6 mesi noi torneremo a vedere concerti o a fare concerti come ce li ricordiamo. Credo che questa roba si prolungherà, per cui credo che insomma quel tipo di scambio, quel tipo di respiro, quel tipo di contatto che esiste in un concerto dal vivo in questo momento non è possibile. Qui portare quell'idea oggi è, credo, di partenza, insomma si parte in qualche modo sconfitti, bisogna rielaborarla, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, e credo che insomma, questo faccia parte un po' del lavoro dei creativi, assolutamente. Speriamo, insomma, speriamo che comunque in qualche modo ce la si faccia anche per tutta la gente che poi lavora nel settore, non solamente per i musicisti. Perché... Per questo ti dico, secondo me va rielaborata, no? Nel senso che proprio perché deve cambiare la proposta, perché questa possa diventare in qualche modo accettabile da un sistema che ovviamente in questo momento ci vede come, noi siamo aggregatori sociali, chiaro che siamo tra i primi nemici di questo virus, di chi ovviamente deve evitare gli assembramenti. Se cambia la proposta, cambia l'intenzione, l'idea di proporzione della performance, secondo me diventiamo anche meno pericolosi per il sistema e riusciamo a rimettere in moto tutto un meccanismo che in questo momento è immobile. Speriamo che le cose si mettano positivamente. Guarda, per chiudere ti chiederei, all'interno di questo album diviso in due parti, se c'è un brano magari a cui sei particolarmente legato, con cui chiudere l'intervista, e magari se puoi anche spiegarci un po' cosa ti lega a questo brano. Guarda, ti direi il Per Sempre, che si trova nella parte 2, è un brano che sono molto legato perché in qualche modo parla moltissimo di me, parla moltissimo del grandissimo problema che ho col fluire del tempo, e parla moltissimo di una serie di tra virgolette così di dolori che sento forti quotidianamente nella mia vita. Tra questi c'è, e credo che faccia parte un po' della condizione dell'essere umano, la solitudine, che di questi tempi è una roba che ovviamente si amplifica. E in quel brano lì, che è ovviamente scritto molto prima che questo virus che solo si affacciasse, c'è una sorta di abbraccio caldo, almeno io lo leggo così, che ogni volta che lo ascolto mi fa stare bene in qualche modo, per cui forse è il brano giusto di questi tempi. Ok, quindi Per Sempre, vi lasciamo con Per Sempre di Lucio Leoni. Ricordiamo che sarai il 30 ottobre al Mercato Sonato, e grazie mille, grazie infinite per la disponibilità. Grazie mille a voi. Trova il tuo spazio, riempi lo specchio, attraversa sulle strisce e guarda a sinistra, ma controlla sempre anche a destra. Perché è tutto una merda, vero o no? E quante volte lo dici? Quante volte ci ridi? E quante volte lo dici pensando davvero a quello che dici? E cosa ridi? Thank you. di una di quelle giornate di festa, ora di pranzo, con gli amici riuniti in una casa col sole. I profumi in cucina, un bicchiere di bolle, gli abbracci più caldi, le voci diffuse di tutti che si danno da fare. Ho bisogno di una di quelle giornate e che non finisca mai, che non arrivi mai l'ora in cui il sole appassisce e poi tu te ne vai. Perché il sole finisce, perché rinunciare, e questi momenti finiscono sempre per poi ricominciare. Non è giusto così, non mi piace per niente. Io voglio che sia sempre pranzo, sempre domenica, sempre marzo. E invece ci salutiamo, prima l'uno poi l'altro. E di nuovo il silenzio prende possesso e si rompe l'incanto. Cazzo, già mi mancate. Attraversa lo spazio, rompi lo specchio. Attraversa sulle strisce e guarda a sinistra, ma controlla sempre anche a destra. Ed è la cosa più protettiva che so o che mi venga in mente. Come in macchina, quando freno però ti metto un braccio davanti. Con l'istinto ti proteggerò per sempre irrazionalmente. Ed è quasi tutto quello che ho o che serva realmente.